sono pirata. Dove è Marcolì? Sono un pirata, non sono un signore. C'è anche quello. Già va bene. A me sta a posto. Sei aia. Beh, sento il messaggio all'istante e ho acceso all'istante. A vedere se c'è qualcuno a pizzu. Quindi vabbè. E ci sono molte partite in questo periodo, perché io naturalmente non ne seguo, lo saprai già. Sì, tra la settimana c'erano partite, c'era la Serie A intrasettimanale, poi sabato, poi domenica, poi c'è di nuovo la Champions, adesso vabbè, c'è la nazionale questa settimana, quindi penso ci sia un po' di tregua, però c'erano un bel di partite. Beh, io sono a Temeca, sto in campagna, però faccio la radio lo stesso. Ieri sera ho visto che c'era un po' di traffico nel Cane 10, verso le 8, ma ero sempre in agguato, sempre in ascolto. Che ha frusciato e dove? In quale frequenza? E in PMR. Intanto fischiano, parlano, qualcuno rutta anche, pare sta diventando come l'internazionale anche lì. Non sono io, Io avverto, ma non sono io. No, segnale basso, se fa lo scala. Era segnale 6-7, qualcosa in movimento c'era. Beh, questa connessione non sta andando. Ti ho mandato un messaggio vocale. Mezz'ora che gira vuoto, boh. Vabbè, non sono mai perfette le connessioni mobili. Guarda, con la DSL fissa, con i cavi, no, segnale che viaggia in aria, è perfetta la DSL, non sbaglia un colpo. Ma qua ogni tanto vedo, aspetta che lo blocco e rinvio, aspetta. No, non mi ha fatto niente Marco, di solito arrivano abbastanza veloci i messaggi tuoi, non è arrivato niente. Ecco, a certe volte quando gira vuoto, no, che vedi che gira quel circoletto, no? Allora conviene bloccarlo e rinviarlo, e l'ha inviato all'istante. Ah, quando sta, ho capito. Evidentemente magari c'è poca connessione, allora lo blocchi, lo rimandi e riprende. Va bene. Non ho sentito, poco ci sta entrando la verità. A volte sto in ascolto, a volte spengo, non poco mi interessa. Ieri sera era la sera accesa, non c'era nessuno, poi ho visto verso le 7:30, così dai, dopo quell'ora lì, verso le 8:15, sino c'era traffico, ma non ho più sentito neanche Gianni, non ho più sentito nessuno, non so che fine hanno fatto. Vabbè, mi pare che siamo tutti uguali. Sì, vabbè, poi qua ogni tanto qualche parte becco con mamma perché non reagisce un po'. Non è solo questione di gambe, capito? È questione di testa. Comunque vedo che anche tu non lo stai ricevendo il messaggio. C'è solo la spunta dell'invio, ma non la spunta della ricezione. Ogni tanto ci sono dei rallentamenti, dai. Non è proprio in tempo reale. Ma è un periodo, WhatsApp non sta funzionando bene come prima. Non lo so. Adesso guardo. Non c'è niente. Niente, ti ripeto. Tutto calma e tranquillità. Tutto calma e tranquillità. Io sto continuando queste cosettine del fenomeno. Però in questi giorni sinceramente parlando non aggiungano. Ieri stavo mettendo a posto armadi, le cose che abbiamo già portato via, eccetera. Mi fanno male tutte le cosce. Sali, scendi dalla scala. Mamma mia, si vede proprio che ho i muscoli bloccati. Ehi, adesso provo a aprire un video YouTube a vedere se me lo legge con fluidità. Ma sto vedendo una cosa strana, c'è un cane tutto baritosto. C'è un ok parecchio più giù. E ne è nato così, o l'hanno reso così, ma credo che sia nato così. Mamma mia, sembra un quadro di Picasso se vedi la faccia di questo cane. È incredibile. Prova, su YouTube. Eia, ha un occhio più in basso. Strano, è nato così, deve essere. Vediamo se mi legge il video. Ehi, le pubblicità le legge sempre bene, maledizione. Poi mi sta sulle palle a me. Perché molti, per fare un po' di soldini, una miseria, no? Cosa sto dicendo? Molti per farci qualche soldino su YouTube lo inzeppano di pubblicità. Io invece sui miei video non ho mai voluto pubblicità. Ma l'ho proposto, ho detto no, non voglio niente. Non voglio soldi da voi nemmeno. Tanto per quello che ti danno una miseria. Ecco la tiranno. Fesserie. Stavo dicendo, sto a posto, se mi siete bene, che ho riattivato il 440, c'era un relè di commutazione da sostituire e sono riuscito piano piano a cambiarglielo. Va bene, la modulazione va tutto bene, sì? Sì, sì. Naturalmente sto usando sempre quel baracchinetto senza smitter e altoparlante esterno. Però ti sento abbastanza bene, limitatamente a questo baracchino e a questo altoparlante. Che poi non è l'altoparlante, è il baracchino che c'è una ricezione Menga, capito? Il 3009 è sempre fermo perché ancora non ho trovato più niente, né saldatori né nulla. È una cosa indegna, guarda. E vedrai che mi scoccerò, mi ricomprerò un saldatore e lo stagno, almeno quello, le cose base. Un saldatore e lo stagno. Mi oggi da Lidl c'era di nuovo quel famoso saldatorino a batteria, che naturalmente va bene per elettronica, no, non per saldare PL. C'ha quattro stilo o mini stilo, capito? Premi il pulsante, si scalda la punta e puoi saldare dove vuoi. Io una volta per fare un saldatore in macchina, nella macchina, no? Non avevo la 220, non avevo il saldatore a batteria. Io in macchina il trasverter, no, che fa? No, scusa, trasverter, sì, buonanotte. Come si chiama quello che trasforma da 12 a 220? L'inverter. Insomma, ho acceso il motore. Ho acceso l'inverter, ho attaccato il saldatore, ho saldato così, capito? Col saldatore a 220 in macchina. Sì, già funziona, ce l'avevo anch'io quello, ma io c'ho anche quello a gas e poi si è scaricato, non riesco a caricarlo, a fare, non so, anzi la verità ho provato a caricarlo, ma perde, o mi è caduto per terra e si è spaccato a qualche parte. Io beh, già non ho questi problemi, già non devo saldare niente, se ho le luci. Ok, va bene. E tu non hai sentito nessun altro al telefono come ho fatto io, nulla, tutto a taccio. No, non sento Pomponio da tanto, ma sono io che non ho telefonato, volendo potrei telefonare, anzi grazie a Dio che c'è questa offerta che ho i minuti limitati, ma come vedi non sto chiamando nessuno, devo essere di buon umore per chiamare, e quindi quasi mai. E vabbè, anch'io se non sono niente da dire, da fare, non mi metto lì a rompere scatole alla gente, anche perché io sinceramente parlando, il telefono che ci vado molto d'accordo, non ci vado molto d'accordo, vabbè però, sentire ogni tanto già fa anche bene, dai, non c'è problema. Gappa gappa, come dice qualcuno, gappa gappa. E vabbè, l'importante ti sei ripreso, tutto a posto. Già va bene. Non so, passi pure che entri giù più tardi. Non penso ci siano altre partite oggi. Ieri ti ripeto. Ma non ho sentito nessuno. Non sento nessuno. Poi di sera, vabbè, durante la giornata, un OKF. alle 10. E niente, ma io ero in ascolto, stavo facendo altro, però ho sentito tutto il QSO. Eia. Ma dunque, vabbè, video li vede, vedo che va. Già va, solo WhatsApp è sempre. Conto una cosa, credo che i messaggi comunque passino da un server, cioè non va diretto dal mio telefono al tuo, ma passa per un server, e quello credo che sia inevitabile. Almeno credo, almeno credo. Sì, non è arrivato ancora, vedo che c'è il segno di spunta, solo quello dell'invio ma non della ricezione, vabbè, non era importante comunque, prima o poi arriverà. Anche io fa a volte, io mai riesco, anche l'altro giorno alla campagna sono uscito a prendere roba, mia moglie mi ha mandato un messaggio su WhatsApp perché aggiungere qualcosa, sono arrivato a casa, ma non l'hai comprata, io non ho detto niente. No, ti ho mandato un messaggio su WhatsApp, vado a vedere, non ne avevo, quindi il tragitto tra l'Eurospin lì di Predagnetta e casa non era arrivato niente. Ma pensa che un giorno Antonello Pomponio mi ha detto che mi ha mandato la foto della barista del distributore, no? Dice guarda che te l'ho mandata, qua non è arrivato niente, ma perché? Perché lui non ne ha mai mandato, oppure ha sbagliato, l'ha mandato chissà chi o cosa ha premuto, non lo so, non ha mandato nulla in realtà qua. Se dice sia particolarmente carina, vabbè, l'una vale l'altra. E poi dovrebbe chiedere il consenso a lei però prima di mandare la sua foto agli altri, in teoria. Sì, ma infatti. Sì, vabbè, tanto è lo so tutti i vetri. Poi magari una. Io non so manco chi è, quella del fornitore eletto della di via Calofrici. Ma poi io ci vado poco. Poco, ci vado mai. Quindi non lo so, non l'ho mai vista. Quando la vedo do un giudizio, ma per lui sono già tutte occhio, ok, basta che respirano. Buonasera! Eccomi, guarda giù di tanzura, avete 15 giorni, non sento già. Dove in vacanza, buonasera. Sì, anche in vacanza. Occupato, poi ogni tanto entravo, ma sì, non più sentivo nessuno spegnevo, ho fatto per un po' di volte, non ho sentito nessuno, ho detto ma ci sono tutti imbecili. E ieri mi infatti ho sentito anche a Franco Carifugno, mi ha detto entra che c'è qualche sera ci sentiamo. Aspetta, non c'è mai nessuno, sono entrato un paio di volte e non sentivo nessuno, almeno che voi fermate più tardi. Sì, già oggi è un miracolo che siamo qua a quest'ora. Se no io proprio una decina di minuti, mezz'ora prima delle 7:30, giusto così a vedere chi c'è, ma sinceramente parlando sono assente anch'io e non avevo garanzia, non avevo voglia. Ma sei rientrato al lavoro? No, ancora no. Minchia. Speriamo che rientri più in fretta possibile. L'altro giorno ho assistito a un dibattito di un amico, doveva andare in pensione quest'anno e invece non ce la fa perché ha fatto in un po' di tempo, un anno e più di malattia, lo so, non è contributiva e quindi deve aspettare un altro anno, se no era però lui era convinto che avesse tutto in regola, invece gli hanno fatto i conteggi, no, lei ha fatto un bel po' di malattia, quindi non è conteggiata nella contributiva, deve aspettare. La giunta portoghese, uno si può mancare, e vabbè, avanti Marco. Ehi Gianni, io ero un po' giù, con qualche battibecchio in famiglia, perché così da, come mamma che sempre così è troppo, non è questione di gambe, no, non ha più voglia di nulla, vabbè, insomma ero giù, guarda, mi ha spronato Claudio a entrare, perché sennò io gli avevo mandato come messaggio appunto che non ho più nemmeno voglia di, non mi attira più il baracchino, siamo sempre i soliti due disperati, cioè io e Claudio, no? Perché non sta più entrando nessuno, che ne so, anche Valerio non se la sente, non si sente così, insomma, già di, non se la sente proprio di entrare lui, insomma, problemi personali, dai. E alla fine per i problemi personali non ha voglia nessuno di entrare, capito? Invece fare la terapia anche e scambiare due chiacchiere. Ho già, capito? E oggi mi è venuto il raptus, visto che ero un po' più su, che ero uscito a fare la spesa, ero più argillo, da. Ho deciso di entrare, ho detto qualcuno entrerà. Insomma, sta diventando, Gianni, un'odissea questa storia, ma è legata sempre al piede? Sì, sì. Vabbè, ma è in guarigione, là. Grazie a Dio, la cammetta al bike mi ha fatto bene, quasi finito completamente. Ci manca un puntino quanto un anno, infatti dovrei rientrare il 10, cioè dopo domani a lavoro. Però vediamo, prima di fare la visita al medico, ha detto di andare lì, vediamo cosa mi dice, perché l'altra volta ha detto se tu rientri tutto ciò che abbiamo fatto, se ne va a farsi benissimo. No, io più che impegni familiari avevo impegni mondani, là, se dico la verità. Ero un po' occupato in questo periodo. Io tutto l'opposto, io mi sto sempre chiudendo di sempre di più a riccio. Reagisci, la vita continua ad andare avanti. A parte quello, siccome hanno notato che dopo l'operazione c'era anche il testosterone basso, no? E quindi sto facendo un'iniezione al mese di testosterone, no? Però grazie a Dio. Praticamente ti vengono pensieri che ti tromberesti qualsiasi cosa che si muova, capito? Ogni tanto sono costretto a scaricarmi, perché se ero divento pazzo, devo trovarmi una donna, mi devo trovare. Ecco perché siete ficcati dalla mano, vero? Guarda, c'ho il braccio destro che sta diventando tipo quello di braccio di ferro, mi. Cambia braccio ogni tanto. C'ero mia, Filippo, ti mando. A parte che ho visto certi video su non YouTube, su internet, donne trombando con i cani. Ma questa, come diceva il professore del film di Verdone, questa è porno anarchia. Sono due critici, non li conoscete, ci sono quelli che strappano con gli animali. Allora, io non mi accontento degli animali. Claudio, sono venuto vicino a casa tua l'altro giorno a vedere fino agli anticorpi. Sì. No, già, li ho sentiti da casa. Hanno detto che è stata una bella manifestazione lì alla Piazza d'Amoro, qua vicino a casa. Sì, lì all'anfiteatro. Solo che non sapevo che ci fosse lì un anfiteatro, mi sono portato le sedie, lo sai, io non posso stare in piedi. Mi sono portato le sedie e me l'ho portata sia io che quell'amico mio che c'aveva questo problema alla gamba che ha avuto l'incidente. Beh, fatto sta, ragazzi, quando siamo arrivati sono buttati tutti arrivi. Ma da poi non hanno il viso, a chi comincia lì? Ah, ti fa male la schiena, io fusato in alto, mi sono messo in alto, negli ultimi gradini con le sedie, ci vedevo perfettamente, stavo comodo con la schiena appoggiata e sentivo, ah, la schiena, mi sa che ha avuto ragione lì a portarsi le sedie, uno si è girato, e glielo credo. Poi, quando me ne stavo andando, non mi sono andata all'Ikea a comprare le sedie, e te, tanto la gente prima stava ridendo, poi era stato lui nei reni, alla schiena, e io ero tranquillo. Io lo so, no, è bello quel posto, bella quella piazza, hanno fatto tutta con i gradini a fanno diverse manifestazioni d'estate, diverse cose fanno di quartiere. Sì, va tu vego già, è puso tu, sì. È come stare per terra, quindi hai fatto bene, pure si di piedi vuoi. Se c'ero io tu pensi non me lo sarei portata. Boh. Se no mi sarei messo in discesa con le ruote, sino ad arrivare a lì, e mi avrei portato quella con le ruote. Avanti Marco. Ciucuccio. Qui parliamo del diavolo e spunta la checchia. Buonasera a tutti, se mi sentite. Sì, Antonè, ti volevo dire, ben sentito un po' tanto, che ero molto giù che ne stavo entrando. A quella famosa foto di quella ragazza qua non è mai arrivata. Tu devi aver sbagliato qualcosa, ma non è mai arrivata qua su WhatsApp, no? O l'ha inviata qualcun altro, o non lo so. E ella te la rinvia, non ti preoccupare. Adesso poi vado l'antenna. Era. Ho fatto l'antenna con come si chiama? Poi aveva fatto che si metteva in bagno come tubo metallico, poi ci ho messo in pratica un tubo di plastica, ho fatto 5,50 come la bazooka in plastica là. Purtroppo non ti posso dare controllo perché questo è l'apparecchio senza smitter. Prova con Gianni, che è diametralmente opposto a te. Qua salta così. Daniele, se tu sei lo stesso, Claudio, vabbè, già mi sente in fotoscala, sicuramente. 20 dB meno del tuo segnale. Tu sei 9,60 e sei 9,35, quasi 40, vabbè, ma noi siamo attaccati. Già va bene, già va bene, allora. Ok, allora, vediamo un po'. Siamo su 10. Andiamo, ecco, allora, questo è 1. La stazionaria com'è? La stazionaria non ne hai, Antonio. E quello è un'incognita. Boh, già non risponde, la si dice che la ganna. Il vento è fatto. Ha bruciato i finali. Tutto fuoco ha preso. Sei sciolto il drugato. Vi avevo dato quelle, come si chiama, il Connex 4000, ecco, no? Il finale era perfetto, ha cominciato a aumentare potenza, ma a girare 10 watt, cose. Alla fine non si riesce più a mettere a posto questo Connex 4000, ecco, ha smanettato i watt, non si riesce più a aggiustare. Non dico che era perfetto, ma quasi. Antonè. Io non ho cambiato il finale al Connex 4000, ma non è quello il problema. In pratica, quando vado a modulare, mi risulta come se ci avessi un corto, capito, qualche condensatore in corto. Perché se mi metto una corda a torre, l'apparecchio esce bene, hai capito, ma devo mettere stazionale a 3. Il discorso è solamente quello, adesso usando la 87, che questo è smanettato tutto. Con l'ottatore del C mi ha tolto, infatti se rompi è una bomba come radio. Potrebbe essere alterata la impedenza di uscita dal baracchino, perché se l'antenna è tarata, cioè il 3 vuol dire che l'impedenza di uscita dal baracchino che è cambiata. È roba di impedenza, hai capito? Non è che il finale gli ho messo nuovo, e gli ho messo il 2312, il 1969, invece la nota 87 gli ho messo il 2312, quello del Connex 4000, e infatti pompa un bel pompa, capito? Adesso usando la nota 87, come stavo usando il Saturneco con quell'antenna che ho costruito, che in pratica quando tolgo la mia 27 della Giuseppe ripiazzo quella di piazza, che è molto più leggera. Perché la 27L è stata lì com'è, è solamente legata, se poco a poco si slega quel tirante che è stato messo per bloccarla, ce la trovi giù, dove c'è il treno. Comunque, visto Claudio, alla fine se non parla nessuno, non entra nessuno. Prima eravamo in 2, poi in 3, adesso in 4. E sono fatto anche Giulio. Ma è normale, se non si sente traffico, come dice Gianni, uno accende, vede che non c'è nessuno. Io sabato e domenica la verità ce l'avevo sempre acceso, anche se ero in campagna, però ce l'avevo acceso, ma non sento nessuno. Poi mi sono spostato in ascolto sul 23 e c'era Gian Maria Contore, fuori con Gian Maria Contore. alla fine mi sono stufato, ho spento tutto, capito mia? Avanti già. Io manco allora stavo più sentendo, girate, non ho sentito manco più allora. Vabbè, adesso d'inverno già cominceremo di nuovo, con un prete cura più già non ne ci più nessuno. Ehi, ma oggi ti già esci da ieri, e che non c'è, sta un po' venendo a mancare a tutti questa passione, non so. Io ci ho messo tutto nuovamente in ordine, una l'ho portata in campagna, il 430, un HF, un VEU, sono diviso un po', però una volta che c'è in campagna c'è sempre da fare, il tè a quello, il tè a quell'altro, era vino, la radio lasci perdere, quando si è a casa un'altra cosa. Sai che sei a casa, non devi fare niente, quindi accendi, ti siedi, ti rilassi, capito già, e quello è il problema. E adesso cambia, ma a proposito, quando è che cambia l'orario? Non sa niente nessuno. Tipo il 28-29 ottobre. Cazzo, tu hai il balle. Alle 5 è già buio, che stavano dicendo che avevano intenzione di non cambiarlo più, lo sai. Addirittura, rimanere così, verso la 7 e mezza, fare buio alle 7 e mezza, va bene. Altro è il balle già, cazzo, alle 5 è già buio. Per carità. Sì, è vero, ma col cane, perché a volte rimanevamo con Marco, con quel amico, fino alle 9 e mezza, aveva gente più buia ancora. Adesso fa buio presto. Ma buio presto tutto, no? Poco, tutto buio presto. Io sto portando tardi perché si era abituato a quell'ora lì. Sto portando anche alle 8, ma è già buio. È già buio. Vabbè, comunque. Quello è. Cosa ci vuoi fare? L'estate è bella, però c'è troppo caldo, l'inverno c'è troppo freddo, fa buio presto, insomma, un casino. Dovrebbe rimanere sempre luce, giorno e notte. Vabbè, molto pompa, non sei uscito oggi. Io mi sono andato a fare la spesa, profa. In farmacia sono passato e poi sono entrato a casa. In mattina sono andato da Ricco. E sono bevuto per inibire, poi me ne sono andato, però. Ho aspettato perché c'era un guasto, c'era, capito? Mi ha fatto fare un lavoro, l'ho portato a casa sua. E gli ha detto, guarda, che tu mi hai cambiato il televisore, perché il servitore che ho io, gli ho detto, funziona bene, eccetera, eccetera. Siamo nel cibo vecchio. E quando mi ha riaccompagnato, dice, domani, gli ho detto, guarda, dice, Andrea, ci vediamo al circolo così ti pago, tu qui sono nel sud. È venuto un giorno dopo quasi un mese. È entrato, ma cosa ha buttato via? Nulla, non ha guardato, ma quel faccia abbiamo il birra, si è bevuto la birra, veloce se n'è andato. Io invece cosa ha fatto? Evidentemente gli è capitato qualche cosa alla televisione e l'ho visto nervoso. E dice, non è che se vuoi non passa giù, no, ho detto, stai tranquillo, ho detto, viaggio in traio, ho detto, vado via, ho detto, l'una e mezzo. E tu prendete il culo e passa con le fiamme, impara a casa piano con il culo. Paga, ti clicco questa volta e te la tocca in culo, così mi paga. Chiari dei. Oia, tutti uguali, sono. Vabbè. Tu quando fare qualcosa, fatti pagare prima, paghi. Così non sbagli. Così non sbagli. Vabbè. Ti hai pagato. Avanti, Marco. Oh, prima pago la retira. Io quando hai finito il lavoro, ma senza dattini, però, non me li dai dopo, me li dai al cito, no? Adesso me li devi dare, non dopo. Ma sentite, quando c'è soldi ti do il pezzo. Sennò non funziona così, no? Sta finendo tutto. Sì, mi ha pigliato per il culo in pratica, capito? E quindi è stato un mese senza andare da Nico, no? Dopo un mese si è fatto vivo e ha fatto finta di non conoscermi. Mi ha detto, ciao, Marco risposto, ma ha preso e si è girato dall'altra parte, ha detto, ah, così, tu sei mala parola, ma poi ho detto, si guarda, che evidentemente è successo quello. E ieri era nervoso, non sapeva come fare. E l'ultima cosa mi ha detto, dice, ma tu, se vuoi l'ultimo passaggio. No, no, no. E tu stai per entrare e ti aspetta un'ora e mezzo, ho detto. Cioè, c'è Vittoria. Vai pure, ho detto, tutto bene. Era nervoso, era non sapevo mai come diavolo fare. Faccia avanti. Paga, bimbo tecnico, che trovo. Tanto si fa pagare la chiamata, meno di 50 euro, quello non ci va a pagare nulla. Ma cosa, le hai cambiato qualche pezzo, cosa aveva la televisione? No, la tutta, cioè quando facevi la ricerca tutti i canali incasinati, capito? Allora ho dovuto stare lì, col telecomando, ma non vanno a metterli in fila, hai capito? E io l'ho messo in fila, uno per uno. E evidentemente quel televisore gli ha dato problemi, magari si è smemorizzato, questo non lo so. Salvaggia, non ci sto più io un'ora e mezzo di là. A casa sua girami le balle, non saranno. Ehi, prova a andare a Vittoria, fatti memorizzare la televisione, 30 euro uno. Io l'avevo portata, ma via. L'avevo resettata e memorizzati tutti i canali. 30 euro lì. Sì, ha fatto bene a farsi pagare 30 euro. Capito, tu ti dici, non mi piace, ci vediamo a cosa, al bar, così ti offro una birra e mi dici quanto ti devo dare, ma tu l'hai visto, vai. Anche tanto l'ho visto io lì da ricco. Dopo un mese è entrato, l'ho salutato, beh, ciao, ha preso una risposta, ha girato la faccia, si è bevuto una cosa veloce, si è andato, mi ha aiutato, mi ha in culo, ha detto, come è finito? E infatti cosa gli ho fatto? Abbia paura casino, basta. Questa volta vai e paga, non ti se mi devo seguire, a te ne dice guardare per bisogno, vai al tecnico e paga. Vai, dai 50 euro e poi te lo porti a casa tua. Perché tu non fai come hai fatto a me, ecco. Bucci, e quindi già, tutto a posto, ma ci sta rimettendo allora tutto ok il piede. Sì, sì. Grazie a Dio. La camera è per male che ci vuole, ma se no casino. Sono lì di procurare queste ferite grosse, no? Nessun medicinale ci riesce, solo l'ossigeno che fa raddoppiare l'ossigeno nel sangue. Che riesce a fare cicatrizzare le ferite. Anche c'era uno che aveva tagliato la gamba, no? Ma io, quando lo medicavano, dopo medicavano a me tutte le gambe piene di sangue, dove se ne aveva la ferita aperta ancora. Mamma mia, no, ma cosa vuoi meno? No, io già ho avuto problemi con quel dito della mano. Tu hai scatole, ancora non è cresciuta l'unghia, è molle molle, mi viene male a ancora usarlo il pollice, piano piano già si riprende, sta uscendo, va. Ma del dermatologo ci vuole almeno 7-8 mesi prima che cresca bene l'unghia, è appena spuntata, viva di tu. Vabbè. Comunque l'importante è che vada bene, dai, poi la pagappa diceva quello. Marcolino Condo, di qualcosa io, abbaia, anzi, non puoi abbaiare tu perché sei un pipistrello. Abbaia, salve. Posso emettere ultrasuoni però, ed ho al telefono con mia zia che l'ho avvertita che domani purtroppo mi è saltata la risonanza magnetica, porca miseria, perché si è sfasciato il macchinario. Ma delicati sono questi apparecchi, ogni tanto anche in precedente coso si avvertivano che si era guastato, eccetera. Magari c'è qualche babbeo che va con piercing non dichiarati, poi parte a raggio e rovina il macchinario, lo sai, perché è talmente forte la potenza magnetica che può perforare, può rovinare il macchinario, capito? Ecco perché raccomandano sempre, ti chiedono se hai qualsiasi cosa di metallo. Invece l'amalgama delle otturazioni, che è un'amalgama a base di, cosa era? Non lo so se è mercurio o piombo, quella non viene attirata dal, non è ferrosa, quindi non viene attirata dall'apparecchio della risonanza. Ok. Poi vabbè, c'è gente che quando deve fare una risonanza si deve togliere i piercing da tutte le parti, dal naso, dalla lingua, dalla bocca, è capito da altre parti che non è il caso di dire. Ma ci è uscito già. Già. Cos'è, papperino? Parla. Aspetta, vado, esco un attimino, vado alla tua farmacia, già rientro fra poco. Antone, ma ripresa si va dal supermercato, si tutta la diana in farmacia, ma se sei comparendo. Devo prendere il Lexotan e la alla farmacia adesso, capito? Devo dirlo perché che altro là, quello che c'è qua sotto, da Luca. Brava, brava. E poi l'altro giorno ho preso le cose, quelle bustine per digerire, quelle... Perché c'è un periodo quando mangio la pizza mi fa questa storia in pratica, acidità e stomaco e non riesco a digerirla. Mi sono dovuto comprare le bustine, ragazzi. E solo le pizze me le mangiavo, adesso non ci riesco più. Anche le pizzette me le comprate la vittoria, la stessa cosa. Quello è l'alcol che ti sta corrodendo lo stomaco. Magari. Al medico, là, una radiografia, una... Il bario non esiste nemmeno più, una volta facevano il bario, si doveva bere quel pappone denso, no? Che era radio opaco, loro facevano la radiografia, si vedeva la forma dello stomaco, lo stomaco, come dice qualcuno. Dai, vai, bravo, ma vende voi, però io... va bene, ci andiamo a fare. C'è anche la limitazione della pizza, c'è la limitazione di quelle veloci che non è la limitazione lenta, si fa con la voluta. Sì, è vero, potrebbero averla imbottita di lievito per farla all'ultimo momento. Sì, tanto giorno me l'ha portato una Giovanna cruda, cazzo. Cruda non voleva vista, tu quando andavi a tagliarla sembrava che fosse tagliando un pezzo di pane comprato là, come si chiama, di quel pane bianco. Per carità, da quel giorno fu tutto. Io la compro sotto casa ed è bella croccante, buona, giusto. No, è buona, vicino a casa, sotto casa mia la fanno buonissima. Vabbè, lui è anche campione italiano, non so, un gol, sta legato. È molto bravo quel ragazzo, deve fare belle croccanti. Infatti la pizzeria si chiama La Croccante. Hanno aperto quella Carbonazzi, Daniele, o già, quello di Putti, buonissima le fa. Buonissima, ce l'ha anche a metro già. Noi quando siamo in tre ne prendiamo sempre mezzo metro, quando siamo in quattro ne prendiamo un metro. Ma è favoloso, eh? Bella, croccante, l'impasto bello, buono. Ci voleva una pizzeria qua di quartiere, sto lavorando da Dio, ma un bel. È morta la madre sabato, lo sapete? Sì, lo sapevo. Se non ci morire è morta la moglie, raga, te ne immaginesci? Capito, infatti sono alla sua vittoria, lì mi attenti, sabato a prendere le pizzette. Beh, affidami la vittoria, sta a fare le pizze, è una cosa, quello che incassa quella lì è una cosa allucinante. Ma anche Daniele l'ha fatto tutto l'anno la fede, è buona, qua a Carbonazzi, in via Cattolocchino, non mi piace. Mi prendi già che vada bene. Ma non vai lì, saluta mia Esther. Capito. Antonè, ma non avrei la celiachia, no? E cosa ne so, Kubu? Non lo so, lei tanto lo so dire. Ma quando ho mangiato la pizza lì mi ha sconvolto tutto lo stomaco. Capito, ogni volta che mangio pizza, pizzette, quella roba lì non riesco a mangiare. No, e altri la sua mano di stomaco. Non prendo molto, ho fatto la bustina. Il pane! Ma non le sto più mangiando, la verità, lo sto contando ma non lo sto mangiando, ho fatto anche cose ieri, l'ha affettato, però non ho, panini non l'ho mangiato per niente, adesso bisogna che mi mettono qua, voglio provare a mangiarmi un panino domani mattina, vediamo se mi fa lo stesso effetto. Perché se te lo fa anche il pane, posso... potrebbero essere i carboidrati, tante cose, tante cose. Ohia! Vabbè, no, vabbè, la pizza mi fa salire la glicemia in picco. Basta che mangio una pizza, mi sale a 300 così, ma non è molto distante già la mangio. Bisogna andare a quello che fa Life 120, cacca. Ogni volta che lo senti tutte le malattie, cacca, che poi vedi l'Alzheimer, non bisogna mangiare né pasta né pizza, né pasta né pizza, né pasta né pizza, sempre così, tutto il resto puoi mangiare, hai detto cazzo, un macco fa vita, c'è un giornalista che non capisce un cazzo di medicina, che si mette a dare consigli, cacca. Oh, poi su YouTube ci sono questi canali di tendenza che ne dicono di boiate, ma boiate forti. Stavano parlando di un culturista che si beveva 4 Red Bull al giorno o 8 e poi è diventato uno scheletro. Secondo loro, la testa loro sarebbe morto per il Red Bull, capito? Non per gli steroidi che si sparava, gli anabolizzanti, a parte che gli è venuto il cancro allo stomaco, quindi non vuol dire nulla, magari le doveva venire e boh, non c'entrano né gli steroidi né la Red Bull, però fare questa disinformazione solo per avere, per essere cliccati e per fare soldi con le pubblicità che sono sul video, è una cosa molto grave. Ma secondo me stai discriminando la Red Bull che cancella la sua vendita, ma vede che fa perdere le clienti, che se dicono queste cose la gente lo si fida più, come la Coca-Cola. Io da quando ho saputo che la Coca-Cola faceva male non ne ho più bevuto. Io l'ho comprata proprio oggi, anzi non Coca-Cola, quella per poveri, la Fricola. Io lo so che fa male, ma in realtà già se ne bevi a litri tutti i giorni, posso capire, ma se la compri una volta ogni tanto, e poi ricordati, di questi tempi fa tutto male, tutto fa male, tutto male. Non sai mai cosa compri, come, cosa ci hanno messo dentro, come hanno nutrito l'animale nel caso della carne, tutto fa male, l'acqua, l'aria, lo smog, tutto male fa. O dobbiamo tornare al Medioevo. E però come si fa? Ma io guarda, mi ricordo che il professore che fa l'esperimento a scuola ci aveva fatto portare un pezzo di fegato di terra. Abbiamo messo il lumbato e abbiamo messo la Coca-Cola, tu devi vedere come l'ha fatto diventare, era bianco il 90, tutto magnurato, e ha detto questo qui è lo stesso effetto che fa quando poi per mettere la Coca-Cola, ve lo fa così. Si è mangiato la ruggine di una rondella un giorno, mi con Franco California, abbiamo fatto la prova, ecco la ruggine della rondella si è mangiata. Ascolta, allora la questura della bambina va bene. Eia, come il Niagara, te lo ricordi? Io ho questo della bandiera, che cosa uso? È solo un amico, cartate. Cioè, un po' di, come si chiama? Di bicarbonato con un po' d'aceto. Il bicarbonato ribolle e l'aceto sgrassa. E te li stura così. Ehi, il Niagara è anche pericoloso, una volta ho visto un nonno che lo usava. Allora, posso? Va. Tanti anni fa, e può darsi che adesso l'abbiano fatto un po' più blando. Allora, lui col buco del lavandino, con lo scarico completamente asciutto, ha versato il contenuto del Niagara che è in polvere, poi ha versato subito dopo acqua bollente e l'ha tappato subito con uno straccio umido. Ma devi sentire come reagiva violentemente a questa roba. Sentivi quasi che tendeva a schizzare quasi dal tappo formato dallo straccio. Secondo me era un prodotto troppo aggressivo e pericoloso. Adesso penso che l'abbiano depotenziato, perché quella è soda caustica allo stato puro. Se ti schiccia negli occhi ti fa cieco. Lo so, ma la usano anche per pulire gli impianti della spina, la soda caustica, quindi le spine, gli impianti della spina, come ti credi che li puliscano? La soda caustica. Diciamo che ci sono dei prodotti naturali che fanno lo stesso effetto senza essere aggressivi e senza bucare i tubi, perché con la roba li buca i tubi con l'andare del tempo. Adesso ve ne dico una, poi magari le opinioni, ognuno ha le opinioni proprie. Io trovo che sia vergognoso far pagare un'acqua, seppur di marca, se bottiglia a confezione, 4 euro e tanti. Perché se tu vai da Sigma qua, sì, c'è San Martino, c'è, saranno acque di marca, ma caspita, se bottiglie di coso 4 euro, non siamo in tempi di guerra, sarebbero 4 euro, sarebbero 8.000 lire delle vecchie lire, 8.000 lire, se litri, non 6 litri, se bottiglie d'acqua da litro e mezzo mi pare un vero e proprio furto. Quando io l'acqua la prendo da Eurospin la pago 84 centesimi alla confezione, 6 bottiglie. Poi ci sono quelli che ti vanno a dire che ma quell'acqua che fa male, che è poco filtrata, non diciamo fesserie, dai. Ci sono tutte le analisi microbiologiche prima di metterla in vendita. Un furto, 8.000 lire una confezione d'acqua, ma in tempi di guerra forse te la facciamo pagare così. E la santa la costa, se tu sei furbo, prendi dello spin la blues, quella è la Sant'Anna, sotto un'altra marca, però è sempre Sant'Anna, quella blues. Lo stavo dicendo io quella, prima prendevo la Sant'Anna, poi Marco, il responsabile di dello spin di via Venezia, il figlio di una ex collega di mia moglie, mi ha detto così e allora prendo quella già. Guarda che la Sant'Anna mi pare che sia di San Leonardo, una cosa del genere. Ci sono acque di Tinigas, sono tutte acque sarde quelle che stanno vendendo all'Eurospin, quindi non dicano coglionate. Ecco, l'Eurospin sì, sapevo, ma anche mia zia mi ha detto che erano acque ben conosciute, solo messe col marchio Blues generico di Eurospin. A parte che la Blues è molto gasata, anche troppo. Quella di Lidl non so da dove provenga, ma potrei leggerlo. Potrei leggere l'origine, anzi ce l'ho qua. Io prendo anche la boschetta, è buona. Quella che uso per cucinare è la boschetta. Per fare da bere alle cavie la boschetta, per fare da bere a terra la boschetta. Quella da 2 litri già, non quella che prendo io adesso perché non sto lavorando più per Filippo. Mentre quando stavo lavorando giù a San Lorenzo Valle, a Usilo, che c'era la fontana, io riempivo tutte le settimane il binario da 20 litri. Capito, fino a 20 litri, acqua buona, acqua di sorgente, e va bene, no, sono acqua e sale. Ma io già, tu immaginati che ho eliminato un bar dove tutte le mattine, non faccio nome, andavo a fare colazione, tutte le sante mattine, colazione, quindi caffè, pasta, acqua e le sigarette, perché aveva anche le sigarette, adesso non so se ce le ha più. E praticamente tutti i santi giorni, tutti, quindi circa 200 euro al mese, solo io, tutti i santi giorni 20 centesimi mezzo bicchiere d'acqua, 20 centesimi mezzo bicchiere d'acqua, ma mezzo, alla fine mi sono rotto le palle, non ci sono più andato. Più andato, ok, vado sotto casa d'Antonello, da Andrea, tutte le mattine, sto andando lì a fare colazione, ok, e assieme al caffè c'è compresa la mezza o gasata o naturale, a gratis, gratis, non te la fa pagare. Sì, poi quello lì anche l'aperitivo ti dà un po' di roba, non so se sei andato prima di pranzo, ti mette i assaggini, tutto quanto, oh no, veramente ci vanno molte forze dell'ordine lì, ci va gente autoloccata, tipo sindaco, gente lui, sì sì ho capito, pure. Ci frequentavo anche un periodo, qui non so più andare, e ho capito anche l'altro bar qual era, se quello che frequentavamo lui era di un piso. Bravissimo già, ma dico io, mi conosci una vita, ho detto una vita, ma non la conosco una sassera, quando io stavo ad Alghero con, che mamma aveva la casa ad Alghero, quindi da ragazzino, che lo avevo con un canguro grigio ovviamente in settembre, cioè tu immaginati, cazzo mi fai pagare a me, sapendo che sono tuo cliente fisso, tutti i giorni ti lascio 7 euro e 20, ma che cazzo mi ha la bile in culo, non ci sono più andato, più, più. Vado sotto casa Antonello da Andrea, anche perché è vicino, come a volte vado anche a piedi a fare una passeggiata. Se non sta piovendo, se il tempo è bello, insomma, capite? È compresa, la colazione c'è, tu immaginati l'altro giorno, perché anche la fuga ho preso una pasta un po', forse troppo secca, non so, di quei ventagli, un ventaglio, ho preso quello, me la fughendo. Quindi ne ho preso un'altra mezza di acqua, manco quella mi ha fatto pagare, tu immaginati. Però tutte le mattine io prendo caffè, pasta e acqua, 2 euro, non 2,20 euro. Alla fine sono 3 balle, per i 20 centesimi. E poi fai lo sommi, in una settimana ti esce un'altra colazione, no? Con 20 centesimi al giorno, capito? Ti esce un'altra colazione. Però è gesto, mi conosci, e tutti i giorni sai che sono qua, mi fai pagare mezza gazzata, 20 centesimi. Ma presa in culo, non ci sono più andato. Due campari, 11 euro. Ma veramente cosa hai in via Menchivi quando uscivamo l'estate, che stavamo lì piazza Vecchietti? Mai siete, poi cosa hai gastato di buoni? Cosa di buoni? Due noccioline e due patatini, prova ad Andrea come stai giunto, già mi è capitato qualche volta, ma già non sto più uscendo come prima, non sto andando più in banca perché sono sempre impegnato, ma qualche volta che è capitato e magari andiamo lì con Stefano, con Principino, a volte vai lì, ti siedi, ma rega poco, e ogni cosa per dire, ti prendi una birra per uno, no? E ti porta già le pizzette tagliate a pezzi, tramezzini tagliate a pezzi, tutte cosettine così, no? Magari ne ordini un'altra di birra, ti riporta nuovamente sempre da mangiare. Tanto di là, due nocciolini, due cagati, ma vai a cagare. Ma da chi ti arrosi? Allora, raga. È una zecca come era il padre. No, il padre gli regalava qualche bicchiere a Claudio, me lo ricordo, era un'altra cosa. Bravo, che ce ne ho ancora, bravo, esatto. Ce ne ricorda tutta un'altra cosa, Marco, lascia perdere. Tu andavi anche dopo cena, per dire, d'estate, sto parlando d'estate, ma sto parlando di luglio, dopo cena, verso le 10 così, a mangiarti un gelato, sai quante volte siamo andati, anche con Gianni, molte volte, d'estate, anni fa, quando era vivo lui, che ci trovavamo tutti in piazza dei Segni, andavamo lì, ci sedevamo, ma si faceva anche tardi. Vai adesso, alle 8:30 è già chiuso, 8:30, alle 9, ma alle 9, cioè alle 8:30 è già chiuso, alle 9 se ne sta già andando, capito? Un bar del genere, ma non ha le biugane. No, adesso c'è il caffè lì, che è molto migliore di quello. Io vado sempre lì al caffè e mi trovo bene. Una domenica siamo andati perché ero con una persona. Siamo andati a prenderci un campari. Ci ha preso due campari, 11 euro. Ah, una cosa allucinante, veramente. Una cosa allucinante, no? Io non sono più tornato. Tanto è vero che mi ha trovato uno che frequenta spesso lì, e proprio lì gli ha chiesto se mi aveva visto, che fine avevo fatto qui e là. L'ha detto di Viro, quando ti do la domanda, tu diglielo, tranquillo, senza problemi, è il mio ordine. Diglielo tranquillamente. Io non ci vado più perché mi sono rotto le palle a pagare 20 centesimi l'acqua. Eppure molti bar la fanno pagare, Non tutti. Poi vabbè, a Porto Torres c'è una volta una cosa allucinante. Com'è che si chiama quel bar nella via centrale? Bar Cristallo. Aveva un nome, un cognome c'era, come avevo chiesto un caffè, un'acqua, mi hanno dato un caffè che sembrava un super ristretto, c'era un cucchiaino di caffè nella tazzina e l'acqua era un mini flutz e nemmeno riempito tutto. Cioè io sono entrato che avevo voglia di caffè e di acqua, sono uscito che avevo ancora voglia di caffè e di acqua. Insomma, secche proprio me. E a Ciara. E mi sa che era quello il cognome. Ma somiglia, secco il culo, qualche idea. Oh, tanti anni fa, e sto parlando di una decina d'anni fa, forse anche 15. Infatti non ci sono mai più tornato. Ma l'ha ripreso lui il Parcla, perché prima c'era solo la farmacia, aveva dato tutte le gestioni. Sinceramente un periodo aveva chiuso, aveva chiuso, poi non so cosa è successo, io mi sono trovato a Polottolese così per caso, ho visto, c'era di nuovo quello zombie del figlio, che si incrocia tra uno zombie e un maccione di ghiaccio, ragazzi, durante feule. No, il figlio adesso lavora via Roma, Claudio, quel bar che c'è via Roma, quello nuovo. Via Roma a Polottolese? No, no, a Sassa. Via Roma quello nuovo, che pare? Non lo so come si chiama, siamo andati con Gianfranco, questa vincura un giorno a prenderci un caffè e c'era lui. Tu guarda la madre, sì, stavo andando qua. Ma a che altezza di via Roma? A metà, dai. Più o meno, cosa ti posso dire, dove c'era prima... quello che prendeva la radio, non so se ci sia ancora, grazie a 33, in quella zona un po' più giù, dall'altra parte. Sì, c'è un bar lì, è vero. No, io invece mi stavo chiedendo come mai il Florian, nell'ultima versione, no, prima di adesso, di quello... Era bello, era illuminato, era tutto specchio, molto luminoso dentro, non ci andava nessuno. Adesso hanno fatto una specie di cosa tutta chiusa, con queste pareti grigie, non vedi nulla, è completamente blindato. Entrano solo, non so se sia per soci o un privé, non so cosa sia, se sia un mezzo bordello, non lo so. La gelateria dove c'era il 3B prima, sei mai andato con la gelateria? Il 3B? Aspetta, dimmi la zona, il luogo, la via, il numero civico. Sì, a Roma sempre, in alto. Lì prima c'era il 3B. No, forse non è più su del 3B, è tutto quasi arrivati alle cacce. C'è un bar, gelateria, e quello è un bel grado, va bene. Più o meno, sì. Non mi ricordo i nomi perché... Già lo sai, io nei bar, caffè, cappuccino, latte macchiato, poi minando. Non è come qua che passano l'intera giornata buttati lì, è una cosa scandalosa. Va bene, parte del caffè, poi arrivi a casa, ti prendi liquori di tutti i tipi e ti cicci. Non li ho più toccati, il rum, il gin, il latte di suocera, il brandy o anche, non li ho più toccati, no? Non riesco a fare, a me c'è poco da fare già, a me piacciono i liquori dolci, solo che non ne compro perché se mi entrano in mano guai, capito? Per i cocktail mi piaceva in particolare l'angelo azzurro, mamma mia, era tanto bello quanto buono, però minchia. A me piace Strega, Sambuca, ma dico piace perché come l'ho assaggiato, però non è che ne pare che beva ogni giorno, ma lo capita ogni tanto, ogni secolo. No, a me piace la Sambuca, mamma li faceva a casa, Sambuca, faceva la Strega, faceva un sacco di liquori, adesso non mi vengono, però alla fine poi ho fatto una specie di inventario perché io vi faccio dei cocktail che aveva scoperto che sparivano, allora non ne ha più fatto. Guarda, l'altro giorno stavo leggendo qualcosa a proposito di cocktail e mi incuriosisce il coso, il discorso, perché io ho questi rum che da soli non lo puoi bere, il gin lo stesso non lo puoi bere, è troppo, è forte, non... E mi piacerebbe documentarmi e anche sperimentare qualche cocktail, dai più vecchi, dal Manhattan, i famosi Manhattan, Metropolitan, quelli dell'anno 3, e fino ai più moderni, tipo Mojito, Caipirinha, altri nomi moderni, cosa ci può essere? Non mi viene neanche il nome, Pina Colada. Ciupito, ciupito. Ehi, ciupito, adesso vanno a ciupiti i ragazzi in discoteca, capito? Ciupito, un altro ciupito, poi una pasticca, una canna, un altro ciupito e poi riportalo via in coma. A Claudio piace il ciupito. Veramente, Antonio Vito, mamma mia, è buono, buono perché è veloce, vabbè, con quel cacchio di succo di frutta. Vabbè, ma... Oh, Marco, esatto, c'è anche la tequila bumbù. Quella ci vuole fegato bella però. Eia, solo che bisogna bere responsabilmente, come dice la pubblicità, perché quella è roba forte. Già io sto cercando di tenermi più lontano possibile dagli alcolici per i vissuti in famiglia, no? Proprio ciò, questa repulsione, però certe cose sono buone, c'è poco da fare. Io sono la pecora nera della mia famiglia, lo sai, sono l'unico che non apprezza il vino, per esempio, diciamo che lo apprezzano tutti in famiglia, eh? Magari mezzo bicchiere a pranzo, però io l'unico che non, a me puoi dare ovviamente dolce il, come si chiama quella cosa lì, bello frizzante, dolce, il lambrusco, lambrusco, un bijou. No, non è esattamente lui, non ho più niente, ho detto un bel po' anche di nuovo, no, non fa altro vino stomaco, anche mi fidi di vino a pasto, basta, fuori zero, vabbè non ce l'ha né dal lupo, quindi, però prima, ehi, andavamo via a Pasqua, riuscivamo la sera, se ce la traghevamo un po' di cosette, allora Gianni poteva anche bere qualcosa, adesso non beve più niente, vero Gianni? No, non sto più bevendo nulla, no, ma non solo bere, ma anche mangiando pochissimo, via. Sì, proprio per far calare la glicemia, di modo che si chiuda subito la figlia, perché se c'è la glicemia non so. Quindi sto mangiando anche mezzo panino a pasto, non sto mangiando primo, insomma, sto mangiando come gli uccellini. Vabbè, e ogni tanto poi magari un giorno faccio un po' di, diciamo, se devo mangiare una pizza la mangio, poi tutta la settimana la malata. Tu Gianni devi fare così, devi mangiare come me un uccellino e usare di più l'uccellone. Ehi, vabbè, diciamo che ho mangiato gli uccellini e ho usato l'uccellone, se proprio ti può interessare. Bene, bene. Uia. Qual è il cocktail che si incendia? Il B52, quello che fa la fiammella, la spegni e bevi. Non lo so, non sono amante dei cocktail. Se c'è la mia figlia forse ti rispondeva, io no, non lo so, assolutamente no. Manco gelati già stai mangiando, non ti credo, che Gianni è un divoratore di gelati. Quanto stai a parlare, te ne mangi anche le dita. No, io non sto più mangiando. Il poncio si serve con la fiammella, l'unico che so è quello lì. Ma io sapevo un cocktail, guarda, adesso non mi ricordo, è il nome di un bombardiere, ma non mi ricordo se è B-52 o B-29, mi pare B-52 comunque. Tutta roba comunque ti crepa, se sei a stomaco vuoto ti crepa di brutto. Comunque, per consumare questo gin, queste cose, qualche piccolo cocktail, naturalmente misura ridotta, molto ridotta, le voglio fare. Ingredienti, poi se ogni tanto ti dico di mettere una fetta di lime, che poi il lime è quel limone verde, no? Cosa cambia dal lime al limone? Lo sapete? È più dolce, più acido, non si sa. Mi sembra che sia più aspro, e poi c'è la buccia diversa, lo usiamo per fare il cocktail, quello c'è che è molto buono. Oh già, a proposito di Gianluca, mi sono ricordato io e Franco una volta, siamo scesi a Polottore già d'estate, era un caldo in moto tutte e due, che poi salendo, tanto a me, salendo via Goggio, via, non so se era Luca o il fratello, no, forse era Carletto, che era una pasciavista che era un casco, niente da me, correnti, si va a mantenere il casco con la mano. Ci siamo fermati lì in piazza e quello che c'è, adesso non mi ricordo, subito lo facciamo però sulla sinistra, va. Siamo seduti lì e repartiamo a coso, a pastici, 1, 2, 3, bella, acqua fresca e pastici, acqua fresca e pastici. commenta che c'è un gatto, e Franco cominciava a ridì, perché lui poi quando beveva iniziava sempre a ridere, ha detto allora c'è un morto, ma come facciamo ad andarci? Ah, non fa niente, già stiamo bene, io sono molto due ultimax. E partiamo della carretta della Valle di Lucca con lui, in due, io lo lascio. Senza che un gasto non preso, perché non ci ha legato il casco, non so produttore, c'è bisogno di aria, ah, miglia sto cuore, ah, l'aria. Ci stiamo accelerando, avete di unione, beh, si è perso il casco. E poi già che quando è legato te lo tira indietro quando cammini, non te l'ha mai fatto che te lo tira indietro lo stesso anche se è legato. Infatti, ma io con T-Max lo tenevo molto, molto stretto perché camminavano un bel po' le moto. Camminavano un bel, magari risate, cacci. E poi entrando in garage in via Pascoli, mi hanno fatto la rampa, tutte e due a scendere, che era già metà mattina. Mezzogiorno, andiamo a sciacquare la moto, così poi domani sono pronte e usciamo di nuovo. Altrimenti nei gaggi, tutti e due, sai, con la serranda, scusate, non tra amigotti, con la serranda basculante, me la franco sotto, altro la serranda impressa, batti la molla, gatto, le scelcute, a pittura, oggi mai c'è bideggio. Ma sarà la voce anche tra la ex moglie. Bravo, bravo, proprio quel giorno lì, era lui che mi stigava a me, ah, ci fermiamo, beviamo, se no a me non me fregava niente, però eravamo tutti e due così e via, là, ci divertivamo, anche il gruppo l'aveva andata a me Teresa, la massa nelle varie. Ehi, ma lo stai trambiando, tu a mio marito, alla faccia. E io sono entrato normalmente, ho detto a me, come sta? Franco, te, ah, Franco, le ragazze sono tabate tutto. Ogni volta che ci contene torna a cotto, la gira gira qui per la via. E vabbè, c'è una moto che non avevi già fatto tutti e due, boia. Già ne abbiamo fatto un Franco. Ne abbiamo fatto, ce le giravamo. Io, perché non le avevano ritirate, lui mi aveva preso il... Il T-Max mi aveva preso la sua, il cosa c'aveva lui, il 500, diciamo molto vera, esteticamente era bellina, ma sono stavi attento, entrando in curva, ciu, non mi sono stufato, vabbè, perché non gliela volevano ritirare, capito? Ma vabbè, dalla a me, to, quanto è valutata? 2000 euro, to, te li do io, dalla a me, e me l'avevo presa io. E poi quella lì invece l'avevo venduta e l'avevo presa il T-Max anch'io. L'Hornet, che ci abbiamo fatto un Franco. Sono un bel che non lo aveva, sono visto la Vittorio a poco. Ci abbiamo preso il caffè, era lì la Vittorio Giove. Ci abbiamo preso il caffè, però anche lui non stava uscendo a poco. Non... E sono finiti già i giochi, oramai poco si può fare. La Sky ci aveva, Ski si scrive. Dicevo Gattamarano. Camminava quella moto, camminava. Però era molto pericolosa in curva, era troppo pesante. Poi gli avevano fatto quel... praticamente sembra che avesse il motore storto, che è troppo pesante, tutta una parte. E l'ho preso perché gli ho detto che non mi piaceva. Mamma mia, che molto bello. No, ma effettivamente aveva ragione. Molto esteticamente poteva anche essere presentabile, ma non era bella. Non era bella, aveva un bel motore. Camminava. Però, come l'ho tenuta pochissimo, avevo preso... Non sai, non mi ricordo se mi avevo preso, ma l'avevo ritirata. Aldo me l'avesse ritirata per l'Hornet, perché lui le vendeva, quelle della Chimico era, lui le vendeva. Forse me l'ha ritirata Aldo per l'Hornet, lo sai, perché per il T-Max non me la voleva ritirare. Sono molto che sono un po' così, dai, non sono di marca, ancora non per le ritirate. E infatti l'unico era Aldo che lui le vende, capito? Quindi mi aveva fatto praticamente una valutazione buona e ho preso l'Hornet. E vabbè. Comunque già, bei tempi adesso, è molto, io ho la mia, faccio attaccio in campagna, che mi serve per spostarmi. E boh, e vabbè, ma già siamo divisi già là, anche tu. Non ricordo la prima volta siamo usciti e su quanti eravamo che allora siamo a tenere molto le macchine, ci vuole un capitale, troppi soldi, le assicurazioni sono troppo care, cioè, mamma mia. C'era anche Tino Muscolo, c'era la prima volta, te lo ricordi? Io c'avevo Suzuki 150 ancora, che c'eravamo fermo un po' di tempo, c'era battuta la scarica e stavo rischiando di non venire, invece poi ce l'ho fatta mettere in moto. E siamo andati a Bussutora tutti canti in crepa, che poi Franco ha preso la moto di Tino, grazie, gli ha dato a colpi, no, era volo. Sì, l'hai fatta a me dopo, l'avevamo scambiato. Vabbè, noi siamo usciti, l'ultima volta siamo usciti assieme, io avevo la Yamaha 250 con te, sì, e poi da lì non sono più andato da nessuna parte. Sì, c'era il Ressetti, e poi mi pare era, no, chi me l'ha trampato con lo scooter, mi pare, col 400, quello della Honda. Ma non lui, l'aveva prestato, era il cognato, mi pare, era abbastanza il cognato. Forse sì, forse il cognato, l'Inder, Winder, boh. bella moto quella, una buona moto anche quella lì. Però poi, no, io ogni tanto già la uso perché mi serve città, spostarmi, certo c'è una fissa in campagna, però non sto più andando da nessuna parte come prima, perché l'ultima volta che sono uscito anche da solo facevo male con la schiena, ho detto boh, la uso poco, quindi città, qualche spostamento, qualcosa, mi siamo scesi a vedere i fuochi d'artificio in moto, come la voglio per il traffico, per fare prima e basta. Marcoli, e tu messo a posto l'avevi quello scooterino che c'hai? Sempre fermo, il problema è sempre quello, l'assicurazione, poi c'ho tre bolli ritratti, che se non sto attento esce, mi pare che non pagano tre bolli di seguito, la tolgono dal FRA. Boh. Non c'è di là. Comunque l'acqua di Lidl, allora, marca Saguaro, ma c'è anche scritto un nome Perla, boh, è fatta ad Arezzo in Toscana, dalle fonti di, boh, non lo leggo bene, Toscana. No, io ho preso la passata. Da Coso c'è quella a quattro voli, da Nonna Isa, che c'è vicino a casa, e costa 17 centesimi la bottiglia da 2 litri. Via. Comunque Gianni, hai visto che bello quello che ti è arrivato? Quello è il coso, il B52, è tutto a strati, fai uno strato di liquore al caffè, uno strato di Baileys e uno strato di Grand Marnier, mamma mia, mamma li turchi, ed è quello, puoi accendere il Grand Marnier e fai una fiammella azzurra, capito? Ma anche nelle mutande la fai la fiammella però. Mamma mia, già lo credo. Comunque anche a me, se mi capitava le rarissime volte in cui ho bevuto mi veniva da bere, sì. Mi veniva da ridere. A tu lì la fai anche nelle mutande la fiammella, Sant'Antonio mio, ce n'è poco di roba che... E poi tutti i liquori dolci, a parte il Grand Marnier. Ce ne sono un sacco, vabbè, quelli tropicali certe volte sono tutto ghiaccio, molto succo di limone, succo d'ananas, ma anche quelli old style devono essere buoni, tipo il B52, è che è molto dolce, è un po' stomachevole certe volte. E cosa c'è questo Grand Marnier, tutta questa roba che hai detto tu? Sì, è fatto a strati, allora il liquore al caffè va sul fondo, a metà, proprio rimane a strati, a metà c'è il Baileys, la crema Baileys, e sopra il Grand Marnier, una bomba, un suicidio è quel cocktail. Mamma mia, no, assolutamente. Sono cose troppo dolci e molto pericolose anche per la glicemia. Io ho fatto da poco già. Ma quant'è? 60, 120 o 80? 80 a 120 già. Che cosa? La glicemia. La glicemia ha un numero solo. Deve essere al massimo 99. Massimo. Poi per un diabetico, anche se è 105, 110 non fa niente, perché è quasi normale. Ma normalmente deve essere a 99. E quindi 80 buono? Sì, sì, è la normalità. Ho fatto le analisi, 80, dicevi. 80. E io non è che sono un grande mangiatore di dolci, diciamo i biadili, la sera andiamo a mangiare qualche merendina, qualche biscotto, qualcosa così, è che tutti i giorni faccio colazione con la pasta, cerco di prendere paste meno, anche adesso ci sono queste integrali, c'è Andrea, sto prendendo quella, però va, già vabbè, no, pensavo avesse da un minimo a un massimo, capito, com'è il colesterolo, i trigliceridi. Marco, vai a guardare quello che ti ho mandato. Eia, sì, infatti ho sentito un ciocco dal cellulare. Eia, sì, comunque c'è un range, c'è un valore minimo accettabile, un valore massimo accettabile per essere nella normalità. E poi me l'avevano fatta anche per la storia in ospedale, ancora tiene, ancora è buona la glicemia. Certo, per me se diventassi diabetico sarebbe un dramma, perché non vado d'accordo con gli aghi. E dopo ti piace troppo i dolci. Infatti mi hanno detto, stai attento, che magari dopo 20 anni o più o meno potresti pentirtene, e io mi tocco sempre le... già capito. Atto, quello che mi hai mandato a me cos'è? B52? Ma lì c'è una bomba. In realtà non è dei più forti, perché sono creme il Baileys, ma ci sono certi che hanno liquori forti, tipo due o tre liquori forti assieme, quelli ti stendono, comunque è buono quello. Non metto in dubbio che sia buonissimo, quello che ti ho mandato. Il Baileys al cioccolato, ma hai provato? Già, no, però mi hanno detto che è una squisitezza. E io sì, l'ho provato, ma è buono. L'ho bevuto a Natale a casa del cugino di Liliana, ci ha invitato lì e l'ho bevuto lì, ma veramente buono, me l'ho bevuto due o tre bicchieri, povera volta. Proprio ti attira, attira un bel enorme, e alle donne piace un bel. Ma è meglio dell'altro? Diciamo, vedi se è buono, sono buoni tutti e due, però questo qui è al cioccolato. Essendo al cioccolato ha un sapore particolare, capito? Anche l'altro a me piace, sinceramente mi piace anche l'altro. E poi alle donne piacciono le cose cremose. Non subito. Oh yeah. Oh già, non mi dire no, sono bellissime, se le vede mamma si innamora. Sono nati due figlie. Eia, ma da molto ce le hai? Che ne avrò 3 mesi così. Quella come mangiano, troppo toghe sono. Qui il pelo è lungo rispetto al cricetto. Sono belle pelosette, carine. Eia, no, quelle proprio non le ho avute, perché sono un po' più grandi. Il criceto è piccolo, sai, il criceto normale, no? Poi ci sono, ho visto addirittura che esistono mini cricetti, minuscoli, piccoli piccoli. Queste non hanno niente a che fare con i criceti, queste sono le cave peruviane, quelle ricciute, quelle col pelo lungo lungo, lo devi vedere il pettinario ogni giorno, devi avere molta pazienza, dai. Però a me siccome gli animali piacciono, quindi avrei avuto una fattoria, fosse stato per me. E ogni mattina quando porto il cane gli faccio l'erba di prato, no, del prato, gli faccio filottini selvatici, erba di quella normale che cresce nel prato, se quanto gli piace. Poi gli do lattuga, peperone, perché hanno carenza di vitamina C, come noi non la produciamo la vitamina C, bisogna integrarla, ma loro la integrano con i peperoni rossi, che sono quelli che ne hanno di più. Poi anche gli altri, i peperoni ce l'hanno, ma in meno quantità. E poi niente, gli piacciono un bel citrioli, gli do frutta, insomma, tutte queste cose qua. Già, l'ho vista mangiare una carota una volta, alla cavia peruviana, allucinante. La mantiene con le zampette, non è che mi tira vasi. Lo so, te le mando adesso, te le faccio vedere, a me me ne sono nati due a casa, però non le do. Le ho messo i nomi, una si chiama Jory e l'altra si chiama Bijou. Lascia buono il microfono. Come ti sono andati a casa? Avevi la coppia, maschio e femmina, e hanno partorito. Esatto. Più che altro ho partorito la femmina. Vabbè, una avrà trombato, no, per partorire. Ho capito, già stavo dicendo quello. No, mandamela a vedere, lo faccio vedere a mia figlia. Le piace un bel all'aria, lei, dei cavi peruviani. C'è un bel cavo, è molto simpatico, molto un belle. Però il casino che hai capito, poi tocca a me a sempre annetta, io un tempo mangio poco. Ah, comunque vedo che hai letto il messaggio sopra la foto, sì. No, non glielo cambio ogni giorno, io gli sto mettendo, c'è gente che mi mette il pellet, ma io non gliene metto perché gli rovina le zampe. Gli sto mettendo segatura comprata e costa 10 euro il pacco. Sì, anche questo mio amico mette la segatura. Oppure ci darà il falegname con la polvere di segatura, ben colata, capito, che non ci siano pizzi di legno, perché si possono fare male. Le mette quella lì, no, una cosa bella, per le rovina le zampe. Ma sai che guardo la foto, le prendi Marco? No, ho sbagliato, quella del falegname non si dà perché c'ha le polveri, di rovina, diciamo, non riesco a respirare bene, l'apparato respiratorio lo rovina, mi fa venire infezione e cose. Si dà la segatura a quella che praticamente è raffinata dalla fabbrica. Non sapevo, evidentemente lui non lo sa. Aspetta, guarda allora il video. Ehi, beh, è vero, il pelo è molto lungo, mi pare che invece i porcellini d'India ce l'hanno leggermente più corto il pelo, no? Un me è più corto, ce l'hanno corto corto. Via, belle, belle. Certo, ci vuole sempre attento. Pensa che c'era un periodo che volevo prendere gli uccellini, solo che a me, già lo sai, già non sono tanto per la caccia. Mi piange il cuore vederli chiusi in gabbia. So che certi uccellini che nascono in cattività ormai, se li liberi magari muoiono di fame, non so se sarebbero in grado di... Insomma, poi ho detto, poi devo sempre pulire la gabbia, la smerdate, la seccatura anche quella. Ma io le prendo in mano, io le pulisco, le lavo, le spazzolo e ci vuole cura perché sennò si formano i nudi, c'è un pelo troppo lungo, quindi si formano i nudi alla fine. Devo subito il pelo sotto perché come tocca si sporca, insomma bisogna avere un po' di cura, mi sono documentato prima di averle, ce l'avevo già, le avevo già avute e poi mia moglie non le voleva più perché dice che sporcavano troppo. In effetti loro saltano, fanno certi salti e ti fanno tremare le risate, se no se le vedi sparigliare o cose, lui sono troppo bene. Cricetti, boh, io ho avuto i cricetti due volte, no? Però i primi o prime che ho avuto, credo fossero due femmine, a parte che non vanno tenute insieme perché se volte si ammazzavano l'un l'altra, le potevo prendere in mano e non mordevano, le prime. I secondi o le seconde che ho avuto, non mi ricordo se erano maschio o femmina, le prendevo in mano, li ti annusavo e dite poi, il morso. Li botto, non te l'aspettare. Per poco una volta hanno lo stritolo, gliene volevo far uscire gli occhi. Che belle già, ma e l'altra è di diverso colore. Allora, adesso ti spiego, adesso ma nel riguardo ti dico che sono i genitori. Allora, il genitore uno, il maschio, è quello che ha il pelo più grigio, quello che ha il pelo grigio lungo. La femmina è quella che ha marrone e bianco. E poi gli altri sono i figli. Però uno dei figli non si vede lì. Adesso se c'è un matto ti faccio vedere. L'hai vista l'erba che ti porto come la mangio? Bella, sì, e beh quella per loro è roba fresca, capito, genuina, la mangiano bene, sì, bella, sì. No, ma poi io, Marco, non ha niente a che fare i cricetti con le cavie peruviane, a parte il fatto che la cavia peruviana costa una barca di soldi, se vai a comprarla, il cricetto costa una fesseria, e poi sono molto più belli, sono più grandi, più simpatici, dai. Sì, infatti, il cricetto è... Vabbè, più simile al topo. E non so perché mordevano i secondi che ho preso. I primi no, li tenevi in mano, te li facevi camminare sopra, nulla. Infatti non ne ho più preso. Basta, mi sono rotto le scatole di pesci rossi, di tutto quello schifo che si forma sul fondo. Sono una rogna un po' gli animali, sì, sono belli, però già è troppo che abbiamo i gatti. Marco, perché tu non sai come fare a pulire il fondo? Tu non dovresti manco toccare il fondo. Allora prendi una bottiglia di plastica, dove si avvita il tappo, gli attacchi una pompa, no? Poi metti, tagli la bottiglia a metà, la metti sul fondo, tiri con la bocca e praticamente ti togli tutta la porcheria e ti lascia solo le pietre in giù, capito? Le pietre rimangono dentro nella bottiglia, la porcheria sale su. Poi avevo visto che esistevano anche per acquari, proprio non acquari ridicoli, quelli di plastica. Ho visto che c'erano anche degli aspiratori da mettere sul fondo, no? Prende tutta la larghezza, metti la sabbia e loro aspirano la cacca proprio e purificano l'acqua. Però non ne abbiamo messo, noi praticamente mettevamo il pesce in un secondo mini acquario e dovevamo lavare la sabbia con un colino particolare per non farla scendere nella vasca. Era una seccatura, poi il pesce, vabbè, sta lì, non, è molto meglio allora gli uccellini, molto meglio le cavie, meglio cani, gatti. E invece il pesce è quello che sporca di meno, vedi? Perché sta dentro l'acquario, si rompe le palle e niente, il cane gira, fa. Poi io sai cosa mi ha fatto il pesce, mi ha rotto una pianta, non avevo mai fatto una cosa, l'ha morsicata. Forse per giocare, che cosa, ho trovato una pianta intera, masticata, piccole piante grasse. Non so se l'ha fatto lui o se l'ha fatto qualche uccello che è entrato, questo non te lo so dire, però l'ho trovata così, l'ho trovata in terra, la pianta, non il vaso, proprio la pianta tagliata. E vabbè, non sai cos'è, che bisogna avere passione nelle cose, se tu hai passione ti piacciono, se non è passione lo vedi sempre come un lavoro. Io se ti faccio i conti di quello che costano mantenere le cavie, tu mi dici già tu sei matto. Allora il mangime da un chilo costa 17 euro e passa. Il fieno, perché io li prendo due o tre tipi di fieno, perché io l'ho preso la camomilla, che è molto profumato anche. E poi riprendo il fieno comune che loro mangiano normalmente, il fieno comune è quello di erba normale. Poi riprendo la segatura, che ho detto ogni pacco li fa due giorni e costa sulle 10,80 euro, una cosa del genere. Tu immaginati i soldi che spendi da comprare peperoni, tutto quanto, e ti raghi pesci. Ma se hai la passione, le prendi in mano, sono dolci, non morsicano. Addirittura alzano la testa, quando tu li accarezzi alzano la testa, sembra che ti sia pure una tombata. Sono la passione, io vabbè, così, comunque il pesce rosso è una cosa più banale, con l'acquario poi di quelli di plastica, no, quelli che pigli da Auchan. Bello è l'acquario che tu con tanti tipi di pesci, anche colorati, capito? Bene, comunque il cane, pillo. Il cane è più intelligente, anche del gatto, in certi versi è più intelligente, perché il gatto dubito che lo possa addestrare a fare percorsi, no? Sa saltare, schivare, invece il cane è superiore in intelligenza, a parte quando prende il bastone in bocca, quei bastoni orizzontali che non passa dalla porta, lì non ci arriva, vabbè. Io un giorno ho visto un gatto guinzaglio con Marco. Sì, l'ho fatto anche noi, a suo tempo, però era non al collo naturalmente, era una pettorina, si crociava su torace, diciamo, e mia zia così li lasciava un po' camminare, pur tenendoli sotto, se no sarebbe scappato il gatto, insomma, sarebbe spaventato. Qua c'è un tipo che passa, che è sempre a voce, ma parolaccione, Puzza, raga, non so con chi ce l'abbia, se con la ragazza, mezzo tossico, e c'ha sempre una specie di passeggino col gatto dentro, un gatto bianco, lo sai? E passa sempre qua sotto, sempre sta o cantando o inveendo contro qualcuno. E questo gatto, bravo bravo, se ne sta in questa specie di... non è neanche proprio un passeggino, sembra una specie di... come si può... di trolley, nemmeno un trolley. Sembra quasi un passeggino, non so se l'abbia costruito lui, e il gatto sta buono buono lì, penso che abbia comunque un guinzaglietto, se no. Sì, sì, fu già. Cimbra! Adempiene, va, passa via. Cos'è successo? Mandalo a Marco, già. Passa via. Video di uno che... adesso te lo manda già. Ehi, ho detto, ma sopra la foto, l'hai letto il messaggio di prima? Sì, sì, l'ho letto. Ma lascia perdere, hai fatto bene. Hai fatto bene. Ti sembra a raccogliere. Ecco, ce l'ho qua, WhatsApp. Anzi, metto direttamente, eccolo che sta arrivando, lo sta caricando, un attimino. Per carità, che brutto che è. Ah, cosa vuol dire in sassarese cimbrana? Ma non lo so, se c'era Giulio te lo diceva, non lo so, è una cosa un po', non so cosa vuol dire, sinceramente. L'hai fatta già questo video, ma te l'hanno mandato? Me l'hanno mandato. Cosa vuol dire cimbrana? Stava chiedendo Marco. Che schifo! Se te immagino parlando così, ne va ventiera, bacia via. Ma un po' fusionato, già dallo sguardo mi sembra un po' deviato, non lo so. Questa risposta come ti faccia? Ma la Sassari è questa, no? Allora, non c'è un cimbrana, era te dolce. Ah, cimbrana è un soprannome. Chiedevo, cosa vuol dire cimbrana in sassarese? Marco! Avanti! Mi copi Gianni! Avanti, avanti! Sto uscendo! Sì, stai uscendo, senti il risposto. Buonasera! Ciao, no, stavo piazzando questa cosa e non mi sembra che usciva. Buon proseguimento, continuate là, ok. No, ma sai che ci devi tradurre, cosa vuol dire cimbrana in sassarese? Cimbrana in sassarese, non lo ricordo. Porta, la cimbrana è il copifini delle porte che si facevano una volta, anticamente. Buonasera a tutti. Ciao Giulio, ciao. Eppure cosa c'entra, non lo so, questo qua, aspetta che te lo... No, vabbè, Giulio, ti scandalizzi se lo vedi. Eia, ciao Giulio, vero. Ciao, grazie, ciao. Ciao Claudio, e ciao Marco, il resuscitato Marco. Vabbè, dai. No, ma detto nel modo come si dice a Sassari, cimbrana, come per dire imbranato, mi la stessa cosa. O cimbrana, come per dire, mi sembrava due vuoteni. Ecco, inteso in quel modo. Però la cimbrana è il coprifilo delle porte di una volta. E allora è quello il significato giusto, dai, quello al secondo, che lo ha imbranato un po'. Vai. Ciao, buonasera, ciao, grazie. Buonasera, ben sentito. Stai uscendo perfettamente bene. 5, 9 più 10 qua. Infatti, guarda, ti ho detto, mi sono entrato a Giulio, te li piega Giulio, perché io il sassarese lo capisco, però se mi chiedi qualche significato di qualcosa, non lo so. La cimbrana, accidenti, il coprifilo della porta. Ma chi fa a tirare in bocca proprio cimbrana? Cioè, si assumeva un po' grugabo uguale al coprifilo della Iana, Sì, perché si facevano prima il telaio, cioè dove erano attaccate le sedie, poi c'era, collegamente per il robustino in telaio, dove c'era un acciaiere, ci andavano attaccate queste coprifili, però erano dei coprifili infatti larghi e allo stesso tempo anche molto spessi, che collegati poi al telaio o della porta non facevano altro che il combustibile. Non erano messi a chiolo come si fanno oggi o già, erano praticamente facenti parte del telaio della porta antica, quella che si faceva una volta, non quelle di oggi moderne. Ma fa parte del dialetto antico, Cipriano, io sì, lo sentivo nominare, ma non sapevo che cos'era, sinceramente. È come quando ho campo di Glocco, è la stessa cosa, no? Ho campo di Cimbrara, ecco, la stessa cosa, più o meno, come per dire, lui sei il don, come si intende in questo modo, già. È un modo di dire anche tutti gli amici. Te lo presento a Cimbra, te lo faccio vedere. E non me lo fa vedere, su WhatsApp. Esatto. E magari ne conosco qualcuno anch'io che lo chiamano Cimbra, lo sa, può essere che sia la stessa persona, cosa ne so. Manda, non sono problemi. E beh, Marco, è resuscitato, sì. Ehi, a Giulio, mi ha spronato Claudio a entrare. Sì, perché sai, alti e bassi di umore, e poi mamma un po' così, frase calante. Quindi un po' di preoccupazione, un po' di paranoia, che non sto nemmeno più sto uscendo a fare commissioni, boh. Ma di mio, a parte che a Sassari, dove vuoi andare? Non puoi fare altro che andare a Platamona, proprio l'ultima spiaggia, in tutti i sensi, l'ultima spiaggia, o da Osciano a passeggiare. Non mi interessano poi a me gli sport, né la Dinamo, manco per le scatole me ne passa di vedere questi uomini in mutande che lanciano pallone in aria. Va bene, dai, però diciamo che una persona almeno un obiettivo cioè da avere, no? Va bene, io per dire la domenica, soprattutto adesso è il periodo del calcio e dunque diciamo che sono quasi tutta la settimana impegnato. E ieri sera, nella verità, sono andato a vedere anche la partita di punti qua, che adesso gioca in promozione, gioca. Per cui diciamo che è il modo per passare un'ora e mezza così, o meglio un'ora e tre quarti, dai, compreso l'intervallo. E se va, e non è che puoi stare sempre a casa così, ammutolito, fai qualcosa, inventati qualcosa, fai lunghe passeggiate, soprattutto a piedi, non in macchina, a piedi, che ti difende molto quello, ti aiuta soprattutto nell'umore, per cui vedi con tuo Marco, datti da fare, prendi la volontà e muoviti sempre, continuamente. Avanti, grazie, ci sei ancora. E rimorchia, soprattutto, che ti ringalluzzisce. Poi questi gli ultimi sviluppi, meglio che rimorchi prima possibile. Ti faccio un carrello dello commone, ce lo vuoi, te lo mio rimorchio, te l'attacchi a Bettorra. Giulio, è arrivato a te Cimbra. Sì, adesso lo guardo già. Ripara. Ah già, non va bene, se vuole rimorchio, con un carrello dello commone ci attacca a Bettorra. Buongiorno, volete venire a casa così gli dico cosa deve fare a Marco. Quindi adesso quando rientra a te sono poi già, e ci vediamo. E ce ne abbiamo ancora una decina di giorni, a metà ottobre mi ha detto che rientrava. Vediamo di organizzare qualcosa, qualche mangiucchia. Capito Marco? Prima che finisca i soldi però. Anche questo mese siamo in rosso. Allora vuoi di nasci? Poi se venga a prendere io, se io aspetto io, tu non ti preoccupare dei soldi, non ti preoccupare mai. Ma l'avevano già mandato quel video, Gianni, ce l'avevo io tempo fa, me l'hanno mandato, mi sembra che me l'ha mandato Davide, me l'ha mandato sempre tanti, quello io non so dove ritrova lui, ma comunque, va bene, dai, Ah, vabbè, che schifo però. Riprende Marco. A proposito di elementi, Claudio, te ne mando uno di Pirri e ho detto tutto. Questo è perennemente ubriaco, guarda in che condizioni è. Si chiama Checco, no? Però gli amici lo chiamano affettuosamente, scusate la parola, che coglione. Faccio tua domanda, vai a dirlo mi. Manda, manda. Oi, oi, oi. Cosa vuoi che faccia? Ehi, guarda un po' di messaggi. Un po' l'ho fatto svegliare questo signorino, si era che scende troppo. Se non mi rispondeva sarei andato a prenderlo, invece poi visto che già rispondeva. E allora è tratto in radio stasera. E io adesso piano piano già ci facciamo, sì, ma infatti glielo ho detto se Giulio non sta entrando è proprio perché sono in partita, ma anche io sabato e domenica in campagna. Poi vabbè, durante la settimana c'erano le partite, gli anticipi, adesso vabbè c'è la nazionale, poi ci sono, c'è nuovamente la Champions, quindi adesso non so quando gioca, vabbè, avanti già. Ehi, ehi, vabbè, ora c'è il suo impegno, ma ogni tanto bisogna pensare anche che abbiamo questo, diciamo, questo hobby e bisogna coltivarlo. Io entravo ogni tanto, ma non c'era mai nessuno, quindi spegnevo. Come vedevo che non c'era nessuno, prendevo, spegnevo e mi attaccavo il televisore, facevo altro. Sì, ma capita magari delle ore diverse, capito? Io sono la domenica, ad esempio, ce l'avevo acceso. Tutta la lì, guardando la partita, perché ho messo appunto un voi un base, l'altro 4.30 e l'altro HF, sto vicino lì proprio, manco sentina ristretta, però la verità sono entrato in 40 metri a salutare a Antonio, quello di Tiri, che stavano facendo un'attivazione. Poi mi pare che ho sentito Antonello in PMR, sto facendo chiacchiere con lui, poi boh, non ho sentito niente. Ieri sera era di nuovo acceso, ho sentito un po' di traffico nel canale 10 di altra gente, stavo ascoltando ma non sono neanche entrato. E boh, tutto qua, una volta capita magari che uno chiama e non risponde, come a volte fa Giulio, che c'è il volume basso e non lo sento, però la vede sempre accesa. Invece c'è il PMR con la scusa che c'è lo squelch, è sempre acceso, e quindi quando c'è qualcuno a volte passiamo qua, ma è raro, ma anche lì è un po' tutto un abbandono. Vabbè, e già ci sentiamo adesso, piano piano, adesso come cambia il tempo. Come cambia il tempo, cambia l'orario e siamo tutti a casa la sera, tanto ne vuoi andare. Io ho pensato che stavate modulando lì in PMR, infatti, però non sapevo la frequenza dove modulate, quindi non ho lasciato perdere. Ah, sul PMR, io ce l'ho memorizzata, ma c'ho la radio poi un base, frequenze amatoriali e c'è anche quella in mezzo, quindi ogni tanto giro se c'è qualcuno, a volte sento a Luca del Monte che parla con Gio Maria, qualcuno così, ma è raro che entri, io sto qui a salutare e basta, però il mio è un caso diverso perché tengo accese anche le V e le U, capito, ma noi ci va, adesso ce l'ho ad esempio le spenta, è tutto spento, c'è solo un 1440 acceso con la T230 strumento, basta, resto tutto spento, non resto. Ormai è rimasta bogagosa, ho diviso un po' da una parte all'altra, giusto per, ma vabbè, però non metto niente di particolare perché non me ne frega più niente, anzi sto aspettando che sia, che si liberi Massimiliano, sta facendo lavori a casa, appena si libera abbasso il sistema e ne smonto tutto. Lo smonto tutto perché alla fine non le usi e si rovinano stando fuori quelle antenne. Ogni tanto le faccio girare a destra e a sinistra, ma non le sto usando, quindi butto tutto giù, lascio solo la mantova e basta. Per montare. se penso un ritira fare rapido, ma pensaci bene. Eh già, il sistema amatoriale ne scendo. Cosa fai? Ti verichi, sono soldi, hai ragione, però se si inchioda il motore ci sono solo 400 euro di motore, c'è tutto il sistema elettronico di commutazione, ne tolgo tutto, tanto non le uso già, non le uso, non è che le vendo, c'è le sue scatole, le pulisco, le smonto, le rimetto dentro le scatole, e ce le porto in campagna, non le metto manco in mansarda, le porto in campagna, capito? Le lascio solo la matto e basta. Tanto cosa ne fai? Non le usi già. Lascio il dipolo, c'ho il dipolo 15, 20 e 40, lascio quello che è gemello di quello che c'è in campagna. Lascio quello lì e basta. Se vuoi fare due chiacchiere le posso fare ugualmente, non c'è bisogno di fare tutto questo parco antenne senza usare, capito? Già basta un temporale, un vento più forte del normale che rompe qualcosa, ti rampi tutto, invece conviene togliere e conservare. E tutto che lo rivolti a Gig, quello è che sono ben pesanti, quelle antenne sono importanti. Allora potresti mettertele in campagna, se ne metti tutto il traliccio da terra e te le metti lì. Oi, esteticamente non voglio vedere niente. No, no. Stai pur certo già che il sistema che c'è montato a Fabrizio, le staffe sono state fatte a lui e le è fatto regolarate. No, non ce n'è problema, guarda. C'ha tre tiranti solo sotto la gabbia del rotore, basta. Non ho mai toccato niente, come l'ha montato lui l'ho lasciato. È un bel sistema, tubi buoni, grossi. Fatto molto bene, telescopico, come ha fatto a regolarate. Ha piazzato lui e non c'è Cristo. È montato tutto da lui. Il MAF sopra il rotore è un tubo innocenti, gli ha fatto anche i gradini per salire su in punta. Io già non vado, ma comunque. Fatto bene, è un bel sistema. È ottimo, niente, ne sono due nuove, tutto PKW. Non le voglio perdere, capito? Le tolgo e le conservo. Tanto l'attività io non la faccio più, non mi interessa. Sono senza entrare in due nubo, sarò tre anni. Ci sono più entrato, 3-4 anni, mi pare una volta, due volte ho salutato a qualcuno ma non ho più partecipato a niente. Lo lascio perché mi piace molto ascoltare, io ascolto sempre da tutte le parti, seguo tutte le attività, le cose, però non mi ha fatto più nulla già. Lascio solo mi 4,40, mi ha comprato il 4,40, che la uso così in 27, gli altri li ho un po' divise e gli altri sono conservati. Ho pulito tutto l'armadio qua a casa dove c'era tutti gli imbarazzi delle radio, da c'era un padre, una busta, sono andato alle concentre, ci ho buttato una busta tra capi, cavetti, spezzoni, radio vecchie, televisori vecchi, quelli piccolini che ci avevano anche la radio incorporata, di tutto, VHF Marini, LPD di quelli piccolini comprati della Brondi, ci ho buttato una busta di roba, capito? Una busta di roba, tutta mondessa che non serviva a niente. E qua ci sono le cose che servono e boh, non le voglio più vedere di Gantarani per fare audience, per fare, come si dice, numero, o creare spazi vuoti. No, non mi frega più niente già. Finito tutto. Ma tu lo sai come si è fatto meglio di me? No, sei a periodi, c'è il periodo che non ti dà più nulla, dopo magari lo riprendi e magari te ne pigli, perché magari il periodo che tu vuoi riprendere non c'è più niente per farlo. E secondo me non fai molto bene a chiudere, per lasciarle ferme, scusa, è meglio usarle, no? E lasci lì, quando ti servono le usi. Anche tu hai ragione già. Hai pienamente ragione, perché anche l'altro giorno lo stesso c'era un po' di propagazione, con di poco sentivo poco, ho attaccato, fatto girare le antenne e arrivavano una schioppettata. Sono antenne buone, poi sono montate dalla gente, capaci, cioè non è che ho fatto io lavoro, per carità. Sono state piazzate, assemblate quella dei semitri, ma l'aveva tutta assemblata e piazzata Marco, tutta tarata. C'era Fabrizio, c'era Walter, eccetera. Non hanno fatto tutto loro, io no, di quelle così non ne capisco niente. Altri elementi l'ha fatta Elio con con due di Alghero, due radioamatori di Alghero, e poi tutta tarata con l'analizzatore d'antenna, quindi è a posto. Sono perfette le antenne già, il sistema è quello che aveva Fabrizio prima di montare il traliccio, l'ho comprato da lui, me l'ha montato lui, le staffe me le ha fatte lui, ma la staffa è barocca, un tirafondi a muro, a tassello chimico, ho fatto un bel lavoro. Hai ragione, toglierlo è un peccato, adesso vediamo già, perché il vento manco ci muovono, guarda, non me ne frega niente. Però hai ragione, quando magari ti servono che le devi usare non ce li hai. Vabbè, ci penserò, vai Marco giù. Il motore metti un po' di grasso. No, già c'è il grasso nel cuscinetto, l'ho fatto anche l'anno scorso, ho riempito di grasso tutto il tappo. Però ci devi arrivare con la scala, capito? Infatti mio Massimiliano mi ha controllato tutti i radiali perché ce n'erano mollati, è salito lui, me li ha controllati tutti stretti con la chiave a cricchetto, abbiamo fatto una manutenzione da poco con Massimiliano, poi ho ripreso la scala, ho visto come l'ha messa, l'ho legata al di fianco, sono salito e ho col CRC ho tutto spruzzato, poi gli ho messo un po' di grasso dove c'è il cuscinetto di G-spinta, capito? Ma c'è il tappo lì, questa roba che ha fatto Fabrizio, ce lo sai anche Pignolo, vedi, in queste cose, c'è un cuscinetto di G-spinta alla favola lì, quindi sono tranquillissimo. E allora, riprendi, e Giulio si deve essere assentato, Marco, Marco, e tu non te la metti oggi? Oh, ero distratto, aspetta che alzo il volume. Bastato un po', dimmi già. Sì, la verità che si stava tormentando, si teme dalla voce. No, sto guardando YouTube, c'è cena di cose, di mamma mia, di macchiette, Cagliari, Claudio non gli è arrivato ancora quello, quello che gli ho mandato. C'era un altro video che spiega tutto, così diventerà pomponio mio. Però per quella volta piazzate qua, hai speso il suo di tutto. Secondo me come le lasciate, tu quando le vuoi utilizzare le utilizzi, adesso ti consiglio a usarle sempre, no? Quando vuoi puoi utilizzare sia per ascolto sia per trasmettere. Pigliato un po' come si chiama, la scala aerea, ISE, guidato, insomma, ti ha levato un po' di travaglio. Un sacco di lavoro c'è, ma anche un sacco di soldi. Un sacco di soldi, cavi nuovi, tutto. Poi c'è il sistema elettronico di commutazione, alimentato da giù, capito? Esce, essendo un unico cavo, anche quello me l'ha fatto avere Fabrizio. Un unico cavo, gli altri sono tutti attaccati su, commuto elettronicamente, tutto a corrente, capito? Della media, un americano, un professionale, un lavoro veramente ben fatto. Quello me l'ha fatto Maurizio con Fabrizio, nel poco grave, capito? Per alimentare su, da giù, lassù, e abbiamo fatto dei casini, tirando con la sonda. È un peccato, lo so, ma non toglierei niente, stacco solo le antenne, boh. E basta, tutto il sistema, i cavi, le cose, non tiro giù niente, piego tutto su nel caso, però una volta che smonti le antenne e poi ti metti a ripiazzarle, devi ritararle, fare, controfare. E vabbè, lascerò così. Sono già dall'anno scorso, le tolgo, invece sono sempre lì. E vabbè. Vediamo Giulio, ma che ore sono? Le 8:20 sono. Vado a buttare giù a Tangio, che dobbiamo scendere. Dove vai? Mi ero qui. Vabbè, dove eri? Vabbè, dottorana. Fabrizio, quel sinistrato di Fabrizio. Ah, quella cimbrana. Vabbè, dottorana, sei tu Marco. Claudio, e poi Gianni, mi ha ascoltato, vai avanti già. Ehi, ciao Tommy, c'era una ditta. E poi è bene andata l'estate a pescare, andato sì. Sì, io vado sempre a pescare, capito. Ma con riba. Andata bene, tutto a posto. Ok, e tu, Cla, riprenditela. Io, lo sai, io pensionato. A casa a pulire, anche lì c'è sempre da fare. K, come Marco lo senti a Fabrizio? Sappiamo che non fa qua. No, sai cos'è? Avevo un minimo di squelci, però qua, per quanto tu lo metta al minimo, tende a tagliare molti segnali, non fortissimi, capito? Lo sento adesso. Io lo sento, questo è un mazzo, non capisco perché. Ero già nel gioco, siete più vicino di me, lì, no, qua c'è Santiago Nova, non c'è nessun problema. Allora, se oggi non lo sento, ma non ti trovi il 409, oggi lo sento 2, 3, un mezzo che sono di QRM, e ciò, non capisco, avanti già. Esatto, io riprendo, vi saluto perché devo portare giù il cane. Ci sentiamo alle prossime, infatti vi sentire più spesso, ma vediamo un pochettino, se mi date il di mattina ci sarò di sera, se no sparito. Quando rientri, dopo domani già? Non lo sai neanche il turno? No, non lo so. No, niente, prima devo fare la visita. Io per me potrei provare, però bisogna che mi visita prima il dottore. Mi ha detto di fare prima la visita, prima di rientrare, che lui vuole vedere il turno. Ma infatti tu fai uscire prima. Se il medico ti dice che puoi andare, vai, e se no lì a Pagliacira e lontano. Ma infatti io domani devo andare dal dottore a fare la visita, dopodiché mi farò sapere, chiederò i turni se devo rientrare. KK, dai, se non ti sentiamo di sera vuol dire sei di sera, ho capito, vabbè, in ogni caso già ci aggiorniamo al limite su WhatsApp, ok, ciao, buona passeggiata, buon tutto, dai, un altro passaggio anch'io, poi anch'io vado a portare il cagnone, vieni qua, non vieni, vieni poco. Grasso, amica. Le prendi, Marco? Ovvio, il cane, il miglior amico dell'uomo, ma anche della donna, quanto ho visto. Pucci. Anche quello serve. No, il mio, questo periodo è un bel fermo, sta ingrassando troppo, adesso iniziamo veramente a farlo correre. Avanti Fabri, un altro passaggio poi io vi lascio, che vado a prepararmi, KK. Vabbè, ciao già, saluzione. Io mi ero in campagna quel giorno, l'ho tutta la cosa fatta, col mio motocoltivo a sorsa, pulita, perché abbiamo segnalato, siamo a sorsa, tutto pulito, ordinato, sto raccogliendo le ultime manzane e gli ultimi ortaggi, quindi se stanno andando le piante, il freddo, cominciano a andare via. Tutto il resto, la campagna è sempre un travaglio, capito? E più la trascuri e più c'è. Io mi ha delle varie, ma fido. Porca miseria, sono quattro giorni. Qua con il mio vicino di casa sono piazzato al fotovoltaico, ma asciuga, mi ha travaglio, per carità. Ogni lavoro, poi siamo messi lì a pulire, a fare. Si è fatta l'ora di pranzo, abbiamo pranzato, poi abbiamo ripreso la sera, pomeriggio. No, c'è sempre da fare, la verità. C'è sempre da fare. Però, cioè è bella, dai, l'estate è un bel bella. È un bel bella, poi vabbè, campagna, per modo di dire. Casa, casa e campagna, dai. Casa, abbastanza bella. Bene, dai signori, io vi saluto, grazie delle due chiacchiere, ciao Marco, ciao Gianni, ho già salutato, ciao a Giulio, c'era anche Giulio, adesso rimetto il microfono, si deve essere allontanato, è mancata la luce, qualcosa è successo, non so se ha avvisato che stava andando via, perché io non l'ho sentito. Ciao Fabri, fatti sentire, noi adesso iniziamo qua, facci sentire, non tutti lì, ma già iniziamo a farci sentire qua su 10, dai. Saluto anche a quelli che sono in ascolto. Ci sentiamo, buona serata a tutti e a presto. Giulio, ci sei? No, riprendi tu Fabri, se vuoi rimanere Marco, io devo andare a portare il cane, se ci siete a dopo, se no buona serata a tutti, ciao ciao. Allora, ho già un po' che sto ascoltando, 525 non si aspetta nessuno, ma sono ancora lì o non sanno che frequenza? Fabri, lo dico con tutto il cuore, non lo so perché io non sto facendo più attività amatoriale, no, non lo so, io sto sempre sui ponti, c'è molta attività sui ponti, sono state fatte solo modifiche eccetera eccetera, riapertura di punti e balle varie, però non so dove stiano trasmettendo. Io ho anche sempre il digitale acceso, non sento nessuno, quindi non lo so. Non so darti notizie, non lo saccio. Appartengo alla categoria oramai fai da te, e quindi non sto più seguendo quelle cose, capito Fabri? Non vorrei dire fesserie, ma non lo so. Anche io digitale cercando, vabbè, sono stato io intanto per curiosità, non è che mi interessi più di tanto, era così per curiosità, era sempre molto, non si può connessione da fare che ho tempo. Io anche digitale ho senso, vabbè da. Stanno bene, classe, oltre in casa, ci sentiamo. Io a Marco non si può mettere a QRM, quindi, salutalo, ci sentiamo nel prossimo. Ehi Fabri, ma tieni in memoria se c'è qualche altra radio, l'R7 Alfa, di solito c'è traffico lì, parlano lì, 145 785.2. Ah, quello la c'è, infatti l'altro ho sentito un po' di traffico, c'erano due quali Sassari, facevano le trombe, lì ogni tanto già li sento, capito? Era solo lì nella monito, che non chiedevo più nessuno, ma stavo venuto tutto, oppure hanno cambiato frequenza, infatti io giro girato, cercato con digitale zero. Era solo una curiosità. Vabbè, ci sentiamo, fammi bene, alle prossime, grazie. Ciao Fabrizio, no, lasciala sempre quella in monitor mitica, magari in questo momento c'è poco traffico perché magari stanno facendo altre cose, ma anche l'altro giorno erano lì. Va bene, ciao Fabri, dai, ci sentiamo se non faccio tardi che c'ho il cane appiccicato qua in stanza. Ciao, alle prossime. Dice la perché è bella anche la campana, anche Lugano è pura, e ti vedo per le palle, fatti che si vibrate, capito? E siete in giro. Lo so, infatti l'ho abituato così, lo portavo e lui stava libero lì e giocava e faceva, però qua a casa come fa? Non lo posso mollare da solo giù perché c'è traffico, capito? Non è chiuso, sì, però ci passa gente, cosa, va sopra, può musicare anche uno, non va bene. Non c'è campagna, è tutto chiuso e quindi giocava e faceva i suoi bisogni senza il mio aiuto. Vabbè. Vediamo, dai. È una decisione che devo prendere e basta. Ancora non sono molto deciso. Ciao Fabri, alle prossime, ciao. Ehi, ciao Claudio, fammi bene alle prossime, ciao. Oh Claudio, scusa, mi sono allontanato, poc'anzi, ma non ero al telefono con quell'amico che mi avevi consigliato tu per quella questione, eccetera, eccetera. E dunque non ho potuto rispondere se mi avete chiamato. Ciao Claudio, buona passeggiata, a domani, ciao. Ciao, ma ti ha dato notizie buone? Per quell'amico che mi hai consigliato tu, no, per quell'apparecchio eccetera, ero al telefono con lui e dunque ho dovuto abbassare il volume e non sentivo se mi avesse, in caso se mi avesse chiamato, ho capito qua. Sì, ho capito, ma ti ha dato notizie buone, si può fare? Devo portare, mi ha detto che da un'occhiata e chiaramente so benissimo la difficoltà che ci può trovare e vediamo un po'. Spero di sì, io mi parlo di sì, lui ha tutta la sua volontà di farlo appunto e appena che è disponibile col tempo che ha, mi chiama lui e me lo porto e ciccia. Sì, ma te l'ho già detto, c'è le mani d'oro, quindi tanto radio ne hai, glielo lasci, lui come ha un po' di tempo a disposizione che le mette mano, non c'entra affa, stai tranquillo che la radio torna perfetta come prima. Va bene, dai, ci sentiamo Mastro Giù, che vado a portare il cagnone, che sennò alla fine mi moscica anche i piedi, sempre no che è in mezzo, dai. Ci sentiamo domani, intanto oramai è tardi. Ciao a tutti, buon fine serata, eccetera, eccetera. Ciao Giù. Ciao, qua, alle prossime, dai. Ciao, l'altro Fabrizio, saluto anche a te, dai, ti ho appena sentito, ma tu hai già chiuso, se sei ancora ascolto, ti saluto. Ciao Fabrizio, ciao Claudio, ciao. Ciao Giù, ma a te che ce n'è domani, niente. che io stiamo andando peggiorando, altro che migliorare. Ancora non ho pranzato io. Detto tutto. Ah, ci sei anche tu. Ciao Marco, ci sentiamo, ciao. No, partite no. Oggi no. C'è la nazionale qua. La nazionale, vabbè, mercoledì mi sembra, e poi anche domenica. O sabato. La nazionale c'è. Ah, ecco, quindi non c'è niente, né Champions, né Serie A, né niente. Vabbè, meglio così. Un po' di Ramadan anche per quanto riguarda il calcio. Ciao Marco, lì, vado a portare il cane, vai. Purtroppo bisogna portarlo, oramai, come diceva Fabrizio, ero abituato a lasciarlo libero, ma purtroppo qua non si può. Ci sentiamo domani, signori, statemi bene. Marco, mi raccomando, che non sia l'unico giorno che si entrate in radio, fatti sentire, se no vengo a pigliarti. Magari, no, vabbè, cercherò di entrare più spesso, dai, ok? Ok, più spesso, fatti sentire. Ogni tanto, la sera, due chiacchiere, invece passiamo l'ora, eccetera, eccetera. Poi, piano piano, le cose già ti viene la voglia, dai, ok? Ciao a tutti, baci e abbracci, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, buona cena a tutti anche, ciao, ciao.